Now boarding. A te dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. A te dry. Buon mercoledì sera su Radio San Donato e buon mercoledì sera da Now Boarding Radio, da Francesco e da David. Ciao, benvenuti al programma che una volta alla settimana vi porta in giro per il mondo, vi racconta il mondo appunto visto dagli occhi degli italiani. E, David, metà maggio, insomma, abbiamo iniziato quando era? Ottobre? Ottobre, giù di lì. Tutta l'invernata, autunno, primavera, ce la siamo fatta, no? Da dove arriviamo? Arriviamo dall'Argentina. Arriviamo proprio dall'Argentina. La volta scorsa, Buenos Aires. Scopriamo così dove approdiamo in questa puntata lanciando la prima traccia. Chico Buarque de Salento. Buon ascolto. Arrependimento que o meu desalento já não tem mais fim. Vai diz assim. Estou louco a perdoar que seja lá como for por amor, por favor, é pra ela voltar assim. Que eu voltei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei. Eu só sei que cansei, enfim. Os meus desencontros, corre, diz a ela, que eu entrego os pontos. Bentornati su Now Boarding Radio. Non possiamo essere che in Brasile, quindi Checo, abbiamo fatto un piccolo salto questo giro. Sì, le distanze da quelle parti sono dell'ordine dei migliaia di chilometri per i piccoli Difatti, salti, però non abbiamo attraversato nessun oceano. No, stavolta no. Volevo salutare anche Lorenzo che ha scelto questa traccia. È da un po' che non lo salutiamo. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ecco, quindi è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. E rincontriamo Anna. Ciao Anna. Buonasera a tutti. Ciao, benvenuta. Grazie. Dovete sapere che Anna è la seconda volta che la incontriamo. L'abbiamo incontrata in una precedente trasmissione di Snowboarding Radio Focus On, una puntata dedicata al pellegrinaggio e al servizio internazionale. Sì, al volontariato. E al volontariato. Sempre lì rimaniamo comunque, anche questo giro. Però quella volta lei si è evitata il terzo grado. Perché nelle Focus On lo facciamo. Sulle puntate speciali non si fanno. E quindi la ripresentiamo di nuovo, presentandovi il terzo grado. Sono pronta. Quindi, cominciando con l'età. Ah, non si chiede mai, ma 24. Ma dai, che ci conosciamo, ce lo possiamo chiedere. Di dove sei? San Donà di Piave. E quindi ogni volta che ripassa per casa viene a trovarci qui, esatto, qui in radio. Giusto. Stabilmente dove vivi? Residenza a San Donà di Piave, domicilio pure, un po' vago. Vaghi. E quindi quanto tempo sei stata in Brasile? Sono stata 2 mesi e mezzo. Dove di preciso? A Criciúma, nello stato di Santa Caterina. Ok, recentemente sei stata, sì? Sì, sono tornata giovedì scorso. Fresca, giovedì fresca. 10. Ti sei partita da sola? Sì. Meglio soli. Che malaccompagnati. Ma dopo lì la compagnia non è mancata. Cosa hai fatto lì? Lì ho diretto e insegnato violino, viola, violoncello e contrabbasso all'orchestra do Bairro da Juventude, della scuola che mi ha accolta. Senza nessuna cognizione di causa o sapevi suonare magari? No, ho improvvisato tutto. No, io ho studiato 12 anni violino, per cui avevo cognizione di causa. Dopo ho lasciato per 3 anni, anche questa esperienza mi ha aiutato a rispolverare e a ritrovare la passione anche per la musica, che avevo abbandonato. Senti, insegnavi violino, in cambio hai imparato qualcosa? Sì, è la prima volta che mi proponevo come insegnante. È stato un lavoro molto duro anche di comprensione del proprio carattere, dei propri difetti. Poi per fortuna ho avuto Riccardo Roschetti al mio fianco. Eravamo una squadra invincibile perché pregi e difetti si bilanciavano alla perfezione. Però è stato un lavoro di autocoscienza e insomma mi sono messa molto in gioco come insegnante. Bene. Quindi, destinazione future? Adesso ti inganniamo in questa domanda. Fra una decina di giorni, torno in Germania. Faccio prima Berlino per una vacanza e poi Norimberga per l'estate. Sì, sì, almeno fino a settembre è tutto disegnato, dopo chi vivrà vedrà. Ascolta, il filo conduttore che lega Brasile e Germania? Perché almeno a me non sembra così chiaro. Beh, non... Il semplice fatto che quando ho deciso di partire per il Brasile ero in Germania. Questo potrebbe essere l'unico filo conduttore. Beh, ho capito, dai. Niente, quindi terzo grado abbiamo concluso. Quindi lanciamo la seconda traccia per poi proseguire l'intervista. Vai. Quindi di Milton Nascimento, Elo Borges e Tren Azul. Giusto, Anna? Sì, dai, te la sei cavata bene. Beh, un po' in veneziano però, dai. Un brasiliano veneziano. Nascimento, lo stesso di Vanna Marchi, Nascimento. Probabilmente. Nascimento. Buon ascolto. Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Questo era il Treno Azzurro di Milton Nascimento e lo Borges o come si pronuncia, no? Tutti? Infatti, infatti. Allora, veniamo un po' a quello che hai fatto tu lì, insomma, o meglio al posto, dove eri? La città era, intanto? Era Criciúma, una città piccola di 200.000 abitanti. Questo piccolo, però una città universitaria, un'università anche abbastanza famosa, quindi non manca insomma l'attrattiva per questa, da parte di questa città. Io ho lavorato in una scuola che si chiama Bairro da Juventugi, che ospita giornalmente, quindi dalle 8 del mattino alle 6 del pomeriggio, 1450, quasi 1500 tra bambini, bambine, ragazze e ragazze, tra i 3 mesi e i 18 anni. Quindi c'è l'asilo nido. Alla formazione professionale, che cioè il panificio, quindi per diventare panettieri, meccanica e informatica. E dopo cioè, hanno una struttura scolastica un po' diversa, quindi dai 14 anni si inizia una formazione professionale oppure si proseguono gli studi però in istituti privati o semi-privati. Questa era una scuola pubblica totalmente gratuita che offriva formazione e attività, le più svariate attività oltre che a cibo 3 volte al giorno ai bambini e ragazzi che non si potevano permettere tutto questo. Questo dal lunedì al venerdì. Quindi questi entravano la mattina, di fatto ci rimanevano lì tutto il giorno e no? Uscivano la sera, venivano riportati a casa, portati a scuola e riportati a casa da un pulmino messo a disposizione dal comune. Pulmino 1400. 1400 no. Facevano i turni, c'era un refettorio enorme e mangiavano a turni di 500 persone alla volta, quindi 3 turni da 500 bambini o ragazze alla volta. Vedo questi pentoloni. Sì, sì, sì. Enormi. Infatti si mangiava sempre riso e fagioli, era il piatto base perché non ci si sbaglia mai. E ad esempio queste attività quali erano? Oltre a quelle scolastiche, quelle diciamo pomeridiane? Sì, si studiava, allora i bambini più piccoli facevano le attività la mattina e la scuola il pomeriggio, quindi studiavano portoghese, storia, geografia, scienze eccetera, mentre quelli più grandi facevano scuola la mattina e attività il pomeriggio. Queste attività erano il coro, corso di chitarra, pallavolo, calcio, capoeira, jiu-jitsu, orchestra, quindi imparavano strumenti ad arco, ricamo, c'era veramente di tutto di più. E hai imparato la capoeira? Almeno un po'? Un po', sì sì, i passi base li ho imparati. Brava. E so anche fare la verticale adesso. No, ma la cosa più importante che il centro, questa scuola fosse un'attrazione per i bambini. I bambini dovevano avere voglia di rimanere a scuola dalle 8 del mattino alle 6 di sera, perché sono bambini, sì, poveri, che magari le famiglie non si possono permettere di pagare loro gli studi, ma la cosa più importante è che non entrino nel traffico di droga, perché è molto redditizio, quindi spesso i genitori, già quando i bambini hanno 10 anni, li usano come corrieri per la droga, e questo è mortale per i bambini, è una piaga sociale di proporzioni enormi. Quindi questo Bairro aveva questa scuola, una forte valenza sociale anche, oltre Chiaro. Che proprio educativa. Chiaro, era proprio togliere i bambini dalla strada per queste ore. Difatti i bambini, tornando a casa, comunque vivevano esperienze abbastanza problematiche, famiglie completamente sfasciate o perché la madre era morta, il padre in galera per traffico di droga o genitori assassinati per una regolazione di conti. Sì, veramente le situazioni più svariate, bambini abusati, bambini che perdono i fratelli. La cosa che più mi ha stupito è vedere due bambini nelle favelas, due bambini di 5-6 anni che non sorridevano. Abbiamo portato loro delle caramelle e loro non hanno accennato a un sorriso. Questo non va bene. Proprio non lo sapevano fare, insomma, non erano abituati forse, no, a sorridere? Non lo so, la sorella era nelle scuole al Bairro, infatti ci ha fatto le feste, ma i bambini più piccoli non hanno accennato minimamente a un sorriso. Questo non va bene, non è giusto. No, beh. E come li hai trovati, tu che poi ci hai insegnato, insomma, predisposti ad apprendere, a voler uscire anche magari da certe realtà difficili o...? Sì, sì, decisamente sì, anche perché è un lavoro, questo del Bairro da Juventugi, che va avanti dagli anni 50, quindi hanno già avuto modo di formare i ragazzi e spesso quelli che sono lì sono i figli di ex alunni del Ballo della Gioventù, quindi c'è una continuazione anche. La cosa da far loro capire è che magari loro non potranno diventare medici, ma magari i loro figli o i loro nipoti sì, che quello, l'investimento che stanno facendo adesso è un investimento per le future generazioni. Sì, questa è la cosa più importante, il valore del Ballo della Gioventù. E c'erano anche, non so, degli alloggi, la gente, c'erano anche studenti che rimanevano lì, no. Si trovavano lì. No, perché la cosa più importante era anche il lavoro con le famiglie. Quindi c'era anche la psicologa che seguiva le famiglie, faceva un lavoro con loro per far fronte comune contro le problematiche che esistono in queste zone. Senza lavorare con le famiglie, per quanto stiano quasi 12 ore a scuola, è un lavoro quasi inutile, quasi buttato. Tu invece vivevi? Io vivevo nel seminario rogazionista, perché questo Ballo della Gioventù è stato fondato a metà degli anni del secolo scorso dal Rotary Club, tra virgolette, poi è stato sostenuto dai padri rogazionisti. Sono un ordine di padri che ha come scopo la preghiera per le vocazioni e occuparsi dei bambini poveri, quindi non sono solamente missionari, lavorano anche in Italia. E io sono stata ospitata nel seminario rogazionista, che era nella stessa struttura di un collegio rogazionista, che però era una scuola privata, quindi i bambini pagavano per entrare in questo collegio. Ho capito. E come sei entrata in contatto con questo Bairo? Io devo ringraziare Gianfranco Cereser, perché con una chiacchierata con i miei genitori, lui era appena tornato, è stato due settimane in vacanza. Ecco, per gli extra San Donatesi stiamo parlando di un personaggio di San Donato. Okay. Sì. Perfetto. Okay, salutiamo, no? Chiaramente, salutiamo. Ciao Gianfranco. Stiamo Ciao. Sul local. Ciao Gianfranco. Ha incontrato i miei genitori a una cena, gli ha parlato del Ballo della Gioventù, di questa esperienza, e i miei genitori mi hanno dato il contatto, quindi sono stati loro stessi a invogliarmi a partire. E io ho mandato semplicemente una mail a padre Vincenzo Lumetta, chiedendo se potevo essere utile. Lui a braccia aperte mi ha accolto. Fantastico. Nella scuola, sì. Ma quindi significa che chiunque può dare una disponibilità, prendere dei contatti, dire io non so, c'ho un mese, do la mia disponibilità per un mese, vengo lì a fare quel che serve? Sì, assolutamente sì. Il contatto è molto semplice, basta cliccare nella sezione contatti di www.bairodagiuventude. Ok, quindi facciamo un po' di spelling. Allora, Bairo con due R, Bairro, da juventude, okay. .org.br, come Brigate Rosse, come Brasile anche. Ok, diciamo come Brasile, va, ecco. questo, bene. Tra l'altro, come con il portoghese, come te la sei cavata? Ah beh, io venivo da terra germanica, per cui il portoghese veramente è filato liscio come l'olio. Lingue affini. Sì, ma mi sembra, è difficile il portoghese. Forse perché non conosci il tedesco. No, è una lingua che mi ha dato non poche difficoltà, però le prime due settimane, dopo, anche perché ho subito lavorato con i bambini appena arrivata, quindi c'era proprio un problema di comunicazione di base. E poi però ho iniziato a farci l'orecchio, a fine di due mesi capivo quasi tutto, e però parlarlo sì, insomma mi facevo capire. La prima frase che ho imparato è «Si tu fa la svagare, io intendo todo». Quindi se tu parli piano capisco tutto. E il trucco per la cadenza qual era, si dicevi? Non volevo dirlo, mi avete incastrato. Allora, parlare come l'accento del gabibbo, prima cosa, e secondo muovendo le spalle a onda. Questo come è il perfetto accento brasiliano. Se tu fai la svagare io intendo todo. Fantastico. Ho appena mosso le spalle, voi non lo vedete, ma noi, qui noi garantiamo. Noi garantiamo. E beh, invece, visto che il portoghese, Davide, noi non lo impareremo mai. Non lo conosciamo. Torniamo al Veneto. Questo gruppo che ci hai consigliato tu, Roba da Ciodi, che per i non veneti significa cose da chiodi, sì. In pratica. America America è il titolo. E chi sono questi? Questi sono un gruppo di brasiliani di origine italiana che, come moltissimi altri brasiliani di origine italiana, riscoprono le proprie radici e hanno messo in musica alcune delle canzoni popolari più conosciute, forse non da noi, da quelli della nostra età, ma dai nostri genitori, anzi forse dai nostri nonni, tra cui questa, America America America America, che è la canzone dei migranti. degli italiani che dall'unità d'Italia, quindi da metà 800 in poi, sono partiti alla ricerca di fortuna in America. La lanciamo? Vai. America, America, America, cosa sarà questa America? America, America, America, un bel mazzolino di fior. Bentornati su Now Boarding Radio, questa è la puntata sul Brasile e chiediamo a Anna una cosa particolare che adesso ci ha raccontato che... Eh sì, ma non vale dire le cose dietro a microfoni spenti, le confidenze ai microfoni spenti. Raccontaci. Niente, stavo raccontando di questo episodio che mi è capitato in uno dei tanti raduni di italiani, o meglio di brasiliani di origine italiana. Stavo chiacchierando con un gruppo di persone, si avvicina questo anziano, perché aveva avuto un'ottantina d'anni, e mi fissa. Che io smetto di parlare, lo guardo con uno sguardo interrogativo. E lui era commosso, gli sono proprio venute le lacrime agli occhi, perché era la prima volta che vedevo un italiano. Pazzesco, perché spiegaci, lì i brasiliani con origine italiana com'è che vengono alla nostra terra? Com'è che... la sognano. Alcuni di loro hanno avuto modo di tornare nella patria perduta. Altri invece non sono mai venuti in Italia. Quindi la vedono come un miraggio, una terra promessa, come la terra delle proprie radici. Perché tra l'altro sanno bene quanti sacrifici hanno fatto gli italiani quando sono arrivati in quelle terre. L'immigrazione italiana è iniziata dall'unità d'Italia. Furono 30 milioni gli italiani che attraversarono l'oceano. A San Paolo, per esempio, ci sono 12 milioni di persone in tutto, 6 milioni sono di origine italiana. Quindi fu un fenomeno di proporzioni incredibili. Colossali, sì. Ma in realtà fu un inganno vero e proprio, perché gli promisero loro terre, ricchezza, e quando arrivarono lì trovarono solamente boschi. Povertà e boschi, la canzone anche lo dice, che sono partiti col loro onore, 36 giorni di macchine a vapore, sono arrivati e non hanno trovato né paglia né fieno, hanno dormito come le bestie, però si sono rimboccati le maniche, hanno davvero fondato città, paesi e industrie. Molti italiani adesso, alcuni non ce l'hanno fatta, nel senso che purtroppo alcuni vivono nelle favelas, però altri sono grandi proprietari di industria, sono grandi industriali. sono riusciti, ho capito. Hanno fondato città come Belluno, Nuova Venezia, Caravaggio, Treviso, tutte le zone dove ero, sì, era divertentissimo la sera. Andiamo a Belluno, so, oggi. Pensa a te. Gente che mi diceva, io sono di Belluno, io facevo un attimo, aspetta, tu sei brasiliano però, non sei da Belluno. Con lo stesso nome. Nova, sì. Trento addirittura mi sembra di aver visto di sfuggita. Sì, facile, facile. Tanto non abbiamo detto, Chris Yuma sta nello stato di Santa Caterina, sì. No? Che in pratica, ci dicevi, è il penultimo a sud. Esatto, prima dell'Argentina. Sotto c'è Rio Grande do Sul. Mm. E è proprio zona di forte immigrazione, prevalentemente italiana, però i migranti furono tedeschi, che furono un po' più a nord, e polacchi. I polacchi purtroppo non hanno avuto molta fortuna, in genere si sono poco adattati al territorio, mentre i tedeschi italiani invece sono riusciti a fondare paesi e città, come dice la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sicuramente hai avuto l'occasione di conoscere molte persone, hai avuto molti incontri e in particolare hai conosciuto una ragazza. Una donna una signora. Ma noi siamo dei galantuomini. Sì, una ragazza. Noi abbassiamo l'età. Spirito da ragazza, davvero è un esempio di vita per me. Stiamo parlando di Derlei Caterina De Luca, una di origini italiane come lei, la grande famiglia De Luca, che veramente è molto ha colonizzato tutta Santa Caterina, originaria di Fregona, dove anche lì i De Luca sono molto, molto conosciuti. E lei è davvero impegnata per la promozione della cultura italiana e anche della conoscenza dell'immigrazione, perché spesso le famiglie italiane che vivono qui nel Veneto non sanno di avere parenti che sono emigrati per cercare fortuna, oppure a volte lo nascondono. Invece la famiglia De Luca addirittura ha un giornale che viene spedito in Italia, fanno incontri, invitano sindaci, consoli, ambasciatori. Davvero è militante in questo senso, nel campo di mantenere la tradizione italiana. Mm-hmm. E ci dicevi prima che per un periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, invece la cultura italiana era in qualche modo stata bandita in Brasile. Sì, perché il Brasile si era schierato con gli Stati Uniti, quindi tedesco e italiano erano lingue impraticabili. E molti documenti vennero bruciati, vennero perduti, per cui anche per le generazioni brasiliane di origini italiane di adesso è molto difficile, per esempio, avere la doppia cittadinanza, perché si tratta di recuperare tutti i documenti e molti furono perduti, e così anche l'italiano fu perduto. Adesso ci sono, per esempio, ho conosciuto una signora, insomma, più che novantenne, che non conosceva il portoghese, parlava solo italiano, ma dialetto veneto degli anni che furono, però il figlio o la figlia parlavano solamente portoghese, perché proprio c'è stato, insomma, ci sono stati 20 anni, anche sotto la dittatura non fu facile, furono 20 anni in cui l'italiano venne proprio bandito, abbandonato, e si perse molto della tradizione italiana, che adesso si sta tentando di recuperare. Ho capito. Oltre, possiamo trovare qualcosa, magari qualche pubblicazione, anche forse di questa Caterina De Luca proprio? Sì, lei, Caterina De Luca, ha scritto un libro che è una testimonianza vera e propria dell'immigrazione. Lei parla della sua famiglia, ma documenti con fotografie, documenti ufficiali. È un libro che si intitola O Jasmins do Jardim de Paulo, che significa i jasmin, che devo ancora capire che fiori siano in realtà, perché insomma anche le foto in internet mi mostrano fiori diversi, sembra sia una sorta di fiore di loto. Questi jasmin del giardino di Paolo era suo zio, e lei, attraverso questo libro di testimonianza, non è un romanzo, è proprio un libro storico, ricorda di quando da bambina sentiva il profumo di questi fiori nel giardino di suo zio Paolo. E oltre a queste persone che hai conosciuto, hai avuto modo anche di girare, quindi conoscere un po' i luoghi, vedere appunto il territorio proprio di Santa Caterina. Abbiamo girato parecchio. Beh, anche con Caterina, con Derlei. Derlei è stata una vittima della dittatura brasiliana. Ha scritto un altro libro, No corpo, una alma, quindi nel corpo, nell'anima, in cui racconta la sua militanza. Lei ha iniziato con l'Azione Cattolica, dopo è stata prigioniera, torturata, detenuta dalla dittatura, è stata anche in esilio a Cuba. E parte questo incontro che, ripeto, è una donna straordinaria, una donna che mi ha insegnato molto nelle poche ore che abbiamo trascorso assieme. Abbiamo visto anche, per esempio, siamo stati in una riserva indios guaraní, a vedere questa riserva dove gli indios sono confinati, stavo per dire ospitati, ma forse confinati è la parola più giusta. Giusto. Ma in realtà loro sono liberi di muoversi, hanno anche molti incentivi statali, perché lo Stato paga loro il cibo, la casa, la scuola, gli insegnanti, l'università per gli indios sono gratuite. Questo ovviamente come risarcimento per il genocidio che c'è stato subito durante l'epoca delle conquiste. Magari un po', ok, noi vi tuteliamo, ma state bene lì. No, forse state bene lì nel vostro enclave in qualche modo. La questione è un po' più complessa. Non ho ancora capito da che parte stia la voglia di che loro rimangano enclave. Perché nell'Amazzonia, per esempio, mi raccontavano, sono molto già più gelosi delle proprie tradizioni, però commerciano legno e oro con i bianchi. Sono riserve in cui, per esempio, un bianco per entrare ha bisogno di un permesso speciale. Loro possono uscire, per esempio, se un indio commette un reato fuori dalla riserva, torna nella riserva, la polizia ha bisogno di un permesso speciale per entrare nella riserva. Quindi è una questione molto, molto complessa, anche appunto in ricordo di quello della tragedia che c'è stata nel XVII secolo, insomma, per cui un po' come se commetti un reato fuori dal Parlamento, poi te ne vai a rifugiare in Parlamento. Esatto, e lì sei a posto. E vabbè, a parte questa nota dolente in chiusura, io Davide ti passo la patata bollente. La patata bollente, lanciamo così la traccia numero 4, Presenzi Paro Futuro. Bravo, bravo Davide, bravo. Presenzi Paro Futuro. Presenzi Paro Futuro. Guarda, non l'avete visto, ma ha fatto la mossa delle spalle. E questa era una pronuncia perfetta alla brasiliana. Grande. Funziona come tecnica. E nella quale volevi descriverci un attimo cosa dice? Sì, questa è una canzone cantata dal coro del Barrio da Gioventugi. E il testo dice: andiamo a trasformare il mondo. Tutto quello che io voglio è vederti sorridere. Da Edoardo Nunes, che è un insegnante del Barrio da Gioventugi. Fantastico. Buon ascolto. Entender. Vamos transformar o mundo. Perché mi guardi e ridi, Anna? No, sono commossa. Ah, ok. Questa è la canzone che ci hanno cantato a me e a Riccardo per salutarci prima della partenza, quindi bei ricordi. Poi immaginatemi un bambino alto mezzo metro, no, un metro e qualcosa, che canta rap. Beh, è una cosa unica. Sì. E beh, dai, allora dici un po' più nel concreto quello che hai fatto tu. Tu arrivi lì, lezioni pomeridiane di violino. Esatto, violino, viola, violoncello e contrabbasso, strumenti di cui non avevo alba. Ho scoperto tutto lì e mi sono anche scoperta abbastanza capace. E niente, ero la professora di musica dell'orchestra del Barrio della Gioventù, e si trattava semplicemente di far suonare questi bambini. Quando è arrivato Riccardo Roschetti, detto Henry, che assomigliava a Harry Potter, e quando è arrivato Riccardo invece abbiamo cominciato a dare più uno schema preciso al nostro lavoro. Quindi abbiamo stabilito una giornata, un giorno, per fare una presentazione, per fare uno spettacolo finale, in cui abbiamo suonato la carovana del deserto di Curci, l'Ave Maria di Bach, l'Inno alla Gioia, il leone si è addormentato di Pumba e Timon, e la Bamba dei Los Lobos, immaginatevi la Bamba con l'orchestra ad archi. E poi abbiamo fatto anche dei lavori di musicoterapia, un po' improvvisando, a dire la verità, perché poi i bambini si prestavano abbastanza, quindi esprimi le tue emozioni attraverso la musica, oppure in questa stanza trovate degli strumenti e iniziate a suonare. Quindi c'era chi sbatteva le porte, chi apriva e chiudeva le finestre, chi strisciava le sedie per terra, chi batteva sul pianoforte a caso. Oppure suonate questa canzone triste, suonate questa canzone felice, fate una postura del corpo triste. È stato proprio un modo per loro per capire che la musica è un modo per esprimere le proprie emozioni. Ed è stato anche difficile, oddio, per tutti i bambini credo sia difficile esprimere le proprie emozioni, a meno che non siano abituati. Chiaro che se si vedono quei bambini e si sa da dove provengono, la storia è ancora più delicata. E quindi tu arrivi il giovedì senza sapere una parola di portoghese, lunedì inizi le lezioni. Martedì, giusto? Inizio le lezioni. Ah, martedì. Ma non ho capito, è stato un caso che tu suonassi il violino e lì hai insegnato violino? Cioè sei già partita invece con quest'idea? Io ho avuto una fortuna. Io quando sono partita avevo l'intenzione di rendermi utile, quindi anche a pulire pavimenti in cucina a me sarebbe andato più che bene. Fortuna ha voluto che il professore che aveva avuto i bambini per i 2 anni precedenti non gli avessero rinnovato il contratto per quell'anno. Nell'attesa di una nuova assunzione sono capitata io, quindi ho coperto quei 2 mesi prima dell'assunzione del nuovo professore. È stata una fortuna per i bambini che hanno potuto suonare quei 2 mesi, e per me perché avevo per le mani un progetto che era mio, che abbiamo creato insieme io e Riccardo, mentre di solito si è inserito in un progetto che, diciamolo francamente, se con o senza di te va avanti comunque. Quindi in genere queste esperienze di volontariato, dico sempre, sono più esperienze personali. Per i bambini è bellissimo vedere che una persona dall'Italia viene fino in Brasile per conoscerti, per aiutarti, per scoprire il mondo, però è sempre anche l'esperienza che ho avuto in Kenya, è più un'esperienza personale, mentre questa volta ho dato del mio in tutti i sensi. Questa volta io e Riccardo abbiamo fatto la differenza. La soddisfazione più grande o il ricordo più bello in 30 secondi? Addio! Una delle soddisfazioni più grandi quando i bambini hanno iniziato a chiedere di venire tutti i giorni a lezione. Cosa che prima non succedeva? No, quindi prima erano pomeriggi, gruppi di 4-5 bambini, e dopo hanno iniziato a chiedere di venire tutti i giorni. Beh, soddisfazione. Cioè, complimenti, sì. No? Davvero. Davvero brava, Anna. Vuoi lanciare un tuo contatto? Beh, lancio il contatto del Bairro da Gioventù nuovamente, anche perché è possibile fare donazioni e adozioni a distanza. Perfetto. L'adozione sono 315 euro, mi pare, quindi, all'anno, quindi meno di un caffè al giorno, e si adotta un bambino che poi si può sempre andare a trovare, sempre disponibili. E il contatto si trova www.bairrodagiuventude.org.br. Benissimo, beh, sicuramente lo scriveremo nel nostro blog. Sì. Lanciamo così anche i nostri contatti. Ricordiamo che siamo su Radio Sandona in FM 102.200, il sito della radio www.radiosandona.it, il nostro blog www.nowboardingradio.wordpress.com, la pagina Facebook Nowboarding Radio e infine la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. Esatto, Anna nel frattempo si sbracciava e diceva: devo ringraziare. Sì, devo assolutamente ringraziare il Barrio da Gioventù, tutti gli insegnanti del Barrio da Gioventù, nessuno escluso, in particolare padre Vincenzo Lumetta, Giuliana, Riccardo Roschetti detto Henry, che senza di lui è stato il miglior compagno di viaggio che potessi desiderare, senza di lui non sarei riuscita a fare niente. E un desiderio, vorrei ringraziare uno per uno i ragazzi dell'orchestra, quindi Isaac, Lawani, Adrieli, Jao Pedro, Amanda, Carou, Michelle, Dara e Lara, le due gemelle, Eduarda, Alex, Carlos, Rogerio, Matusa, Talia, Jefferson, Luana, Bruna e Anna Claudia. Fatto veloce. Un saluto a tutti. E una cosa non ti abbiamo chiesto: che età avevano i tuoi ragazzi? Dagli 8 ai 12-13 anni. Ecco, mancava questa curiosità. Ultima canzone, Toccando in Frenchy, cioè Sempre Avanti di Almir Satera, un cantautore brasiliano, una canzone che abbiamo dedicato a, io e Riccardo abbiamo dedicato ai ragazzi, quindi rinnovo questa dedica. Una canzone splendida che dice, faccio molto veloce, dice: andando lentamente perché ho già avuto abbastanza fretta, portando con me questo sorriso perché ho già pianto troppo. Il ritornello, c'è bisogno di amore per poter pulsare, c'è bisogno di sorriso per poter capire, c'è bisogno di pioggia per poter fiorire. E alla fine dice: ognuno di noi porta in sé il dono di poter essere felice. Wow, e con questa finiamo la puntata. Alla prossima, ciao, ciao. Alla prossima, grazie a tutti. Hoje mi sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.